Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ci sono delle persone che vengono da contesti di guerra, da violazione dei diritti umani, bisogna dare un segnale di solidarietà. Ecco, e questi sono valori su cui si fonda la nostra Costituzione. Quindi avete dato un esempio di cittadinanza attiva e di rispetto dei valori su cui è fondata la nostra Costituzione. Io per questo vi ringrazio. Cominciamo così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, alla fine di questa settimana, con tutte le polemiche, i bracci di ferro, eccetera, sui migranti, con questa frase, o questo discorso, diciamo, della Presidente della Camera Boldrini, che a Milano, era a Milano, ha incontrato i volontari che si occupano dei rifugiati nella stazione centrale, insomma, ha dato loro questo, diciamo, questo encomio. Non ci occuperemo tanto di immigrazione, che comunque è un argomento quotidiano, semmai nel riepilogo della giornata all'inizio, quanto invece del punto sulla politica della settimana, come sempre il venerdì, no? Tra i tanti argomenti, la situazione di Roma con Mafia Capitale, la posizione difficile di Marino, la tensione sulla scuola, oggi c'è stata una riunione all'interno del Partito Democratico per cercare di arrivare a una mediazione, il Jobs Act, che sapete, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, di questa polemica sui controlli a distanza previsti da un decreto attuativo, e poi i migranti, per l'appunto. Invece un altro tema che tratteremo è la tragedia americana, la strage che c'è stata. Adesso vedevo poco fa un'agenzia nella quale i familiari delle vittime dicono al killer: ti perdoniamo ma pentiti subito. Questo slancio del perdono, di perdonare chi ha fatto una cosa terribile, del resto. E fra l'altro è stato messo in carcere, pensate, con il poliziotto bianco che aveva ucciso proprio a Charleston un afroamericano indifeso. Poi ne parleremo, ma vorrei concentrarmi sulla questione delle armi, no? Obama ieri è ritornato su questo dibattito annoso negli Stati Uniti tra la eccessiva facilità di procurarsi delle armi, dall'altra parte appunto le lobby delle armi potentissime, che anzi oggi hanno proposto di mettere delle armi nelle chiese per difendersi, questa è per loro la soluzione. Ma quello che volevo chiedere è: soltanto una questione di lobby oppure anche di cultura americana? Secondo voi, se in Italia fosse più semplice procurarsi delle armi, sarebbero tante le persone che lo farebbero? Questa è la domanda che vi pongo stasera e alla quale potete rispondere come sempre attraverso i vostri due canali di interazione, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte o gli SMS al 349 238 6666. Lo ripeto, il numero di SMS è 349 238 6666, per rispondere a questa domanda: se in Italia fosse più facile, ci sarebbe tanta gente che si procurerebbe delle armi? Poi parleremo anche del Family Day. Sabato scorso c'era stato il Gay Pride a Roma, questa volta si risponde col Family Day domani, e poi c'è il meteo, ci sono altre cose. Incomincio naturalmente come sempre con raccontarvi la giornata. Migranti, giallo sulla posizione della Francia, prima circolano voci di allentamento dei controlli ma poi le autorità negano. Grecia, il primo ministro Tsipras crede nell'accordo ma Juncker evoca il Grexit, e intanto i correntisti hanno ritirato 2 miliardi di euro in 2 giorni. Stati Uniti, il killer di Charleston confessa: volevo far scoppiare una guerra razziale, ora rischia la pena di morte. La riforma della scuola, l'appello del PD e le opposizioni: arriviamo a un accordo oppure si ricorrerà alla fiducia. Cassa depositi e prestiti, Bassanini si dimette e diventa consigliere di Renzi, al vertice sale Costa Magna. Ilaria Alpi, dopo 16 anni scarcerato, asce Omar Hassan, accusato del concorso nel duplice omicidio della giornalista Ilaria Alpi e del cineoperatore Miran Rovatin, deve scontare altri 3 anni ai servizi sociali. L'inchiesta sul crack della Divina Provvidenza: il cardinale Versaldi propose di tacere col Papa sui 30 milioni di fondi pubblici del Bambin Gesù usati per acquisire lidi, ma lui replica: mai pensato di mentire al Papa. Multe sono da annullare se gli autovelox non vengono revisionati, lo dice una sentenza che potrebbe aprire una valanga di ricorsi. E partiamo quindi dall'emergenza immigrazione. Questo è sempre naturalmente in primissimo piano tra le notizie, perché ci sono state, vi dicevo, in giornata notizie contrastanti sulla posizione della Francia rispetto ai migranti. Questi giorni sapete del braccio di ferro con l'Italia, il confine con Ventimiglia, i respingimenti. Ma a Radio 24 Alessandra Lazzari, capo gabinetto della prefettura di Imperia, dopo la notizia arrivata nel pomeriggio che la polizia francese avrebbe lasciato andare 4 migranti fermati alla stazione di Menton, ha confermato: la frontiera Ventimiglia resta chiusa, le richieste di riammissione dalla Francia continuano. Allora sentiamo le sue parole nell'intervista di Livia Zancaner. Non sono più i rituali come nei primi giorni, cioè quando li portavano al confine senza le procedure ordinarie. Ora sono richieste di riammissioni formali, cioè ricollegandolo a una permanenza sul territorio italiano, un biglietto da 20 miglia per Nizza, quindi chiaramente una tracciabilità della provenienza, e l'Italia in base alle documentazioni che ha, che riceve, li riammette, perché altre cose non ci sono da fare, non è possibile fare diversamente, e comunque queste riammissioni continuano. È vero che vengono rimandati in Italia anche profughi che erano in Francia? Vengono rimandati in Italia coloro che avevano passato da poco il confine nei giorni scorsi in possesso di un biglietto proveniente dall'Italia, non persone che stazionavano in Francia da mesi, che a un certo punto li hanno presi e li hanno portati in Italia. Questo infondato. Di quante persone si tratta più o meno? Le riammissioni sono un numero significativo, 1000 riammissioni dall'inizio di giugno più o meno, a spanne. E adesso, come sempre, di giorno in giorno, no? Si parla dell'emergenza immigrazione, naturalmente anche della Grecia, che è davvero un tormentone, una tragedia greca, perché ieri c'è stato l'Eurogruppo ed è finito senza nessun accordo. È stato annunciato un vertice straordinario per lunedì. Tsipras sembra ottimista, però intanto sono stati ritirati in due giorni dalle banche greche 2 miliardi. Tra l'altro Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao. Tsipras oggi era il primo ministro greco, era a San Pietroburgo dal presidente russo Putin, perché sta cercando un'altra sponda evidentemente. No? Sì, non è un gioco nuovo, possiamo dire, quello che fa Tsipras. Già lo abbiamo visto questo gioco poche settimane dopo la sua entrata in carica, quando venne eletto, e già allora i suoi incontri con Putin, aveva avuto degli incontri con Putin nei quali insomma ha iniziato un percorso relativo ad alcune partnership, ad alcuni accordi riguardano anche il gas, ma svelatamente ha sempre poi fatto, mai ufficialmente detto, però ha sempre fatto intendere che di fronte a dei problemi con l'Europa la sponda russa era un'opzione. Anche oggi il Cremlino ha smentito qualsiasi aiuto finanziario offerto, promesso alla Grecia, però chiaramente il messaggio di sottofondo resta. Come restano, lo dicevi anche tu, lo accennavi anche tu Roberta, le preoccupazioni, perché lunedì sarà sicuramente una giornata cruciale. È interessante il videomessaggio che ha mandato il Presidente del Consiglio Europeo Tusk, ha detto: il gioco del pollo deve finire, così come lo scaricabarile non è un gioco, non c'è più tempo per giocare. Tusk in modo molto esplicito ha semplicemente detto che o Atene fa un passo ulteriore oppure il default diventa a questo punto un'opzione da accettare. E ha aggiunto che comunque questo vertice, che dovrebbe insomma fine nelle speranze molti anche di Tsipras, perché Tsipras ha detto che se c'è un vertice l'intesa potrebbe essere possibile, questo vertice, ha detto Tusk, non aspettatevi una soluzione definitiva, è un vertice politico di capi di Stato, e alla fine l'accordo sulle riforme, l'accordo per poi sbloccare anche i famosi 7 miliardi che permetterebbero di ripagare la rata all'FMI a fine giugno, questo fa parte di un negoziato tecnico che devono fare gli Sherpa, come pure i ministri delle finanze, quindi ancora una volta ha detto cerchiamo un'intesa, guardiamoci in faccia, il messaggio sostanziale era guardiamoci in faccia, quindi capiamo se veramente vogliamo salvare il salvabile, tenere Atene nell'euro e ripartire da capo, oppure se bisognerà pensare a questo piano B e pensare a un'Europa forse senza più la Grecia nell'eurozona e con Atene che a quel punto farebbe default e si aprirebbero scenari effettivamente abbastanza inesplorati. La prossima puntata lunedì allora, grazie lunedì. Sergio Nava. Ciao. E restiamo all'estero, rischia la pena di morte Dylan Roof, il 21enne che ha ucciso 9 afroamericani in una chiesa di Charleston negli Stati Uniti, ha confessato di essere l'autore della strage e di aver aperto il fuoco per scatenare una guerra razziale. I capi d'accusa sono 9 e vanno dall'omicidio aggravato al possesso di armi da fuoco. Rischia la pena capitale Dylan Roof, il giovane che ha sparato nella chiesa afroamericana di Charleston e ucciso 9 fedeli. Condanna a morte chiesta senza mezzi termini dalla governatrice del South Carolina Nikki Haley. Caschetto biondo e occhi spiritati. Il killer era stato in carcere già 2 volte e probabilmente era imbottito di droga. Alle autorità americane ha rivelato di aver agito per scatenare una guerra razziale. Non è stato un raptus, progettava la sua azione da almeno 6 mesi e ha sparato con la pistola che il padre gli aveva regalato per il suo 21esimo compleanno. Armi facili, semplici da ottenere, una pratica contro la quale ha tuonato il presidente Barack Obama, auspicando una nuova legge, mentre la First Lady Michelle da Venezia invoca lo stop a stragi come quella di Charleston. La replica delle potenti lobby americane delle armi fa capire che le resistenze su una legge più restrittiva saranno fortissime, come già accaduto nel 2013 con il no del Senato ai maggiori controlli alla vendita. Per uno dei leader delle lobby, se in chiesa ci fossero state armi, i fedeli avrebbero potuto difendersi e adesso sarebbero ancora vivi. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo vi chiedevo appunto le vostre riflessioni, appunto è una questione solo di lobby e anche di cultura americana, cultura del Far West, o per voi, se anche in Italia fosse più facile accedere alle armi, ci sarebbero tante persone che se le procurerebbero. 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure c'è sempre lì comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso parliamo di politica, politica italiana con la riforma della scuola, sulla quale il Partito Democratico lancia un appello alle opposizioni. O trattiamo, arriviamo a una mediazione, oppure si ricorrerà alla fiducia. Approvare ad ogni costo la riforma della scuola per assumere i precari. Matteo Renzi convoca un vertice a Palazzo Chigi. L'ok al disegno di legge deve arrivare in tempi brevi, tenere aperto il dialogo con Sinistra Dem e con le opposizioni. Ma se questo non sarà sufficiente a far ritirare i 3.000 emendamenti in commissione istruzione di Palazzo Madama, spunta anche l'ipotesi della fiducia. Così il capogruppo Dem alla Camera, Ettore Rosato. Si va avanti con la riforma della scuola così come previsto. Parte tutto l'impegno del governo e dei gruppi di maggioranza per andare avanti con le assunzioni e consentire che la riforma della scuola entri in vigore. Da parte di Sinistra e Cambiamento, corrente dialogante della minoranza PD, Maurizio Martina pensa che possano essere cambiati singoli punti per migliorare il provvedimento, ma va fatto in fretta. Protesta Scelta Civica, Renzi coinvolga la maggioranza, altrimenti la riforma se la vota da solo. Da parte delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle non ritira gli emendamenti e dice di non cedere ai ricatti del governo. SEL chiede di stralciare la norma sulle assunzioni con un decreto per non imbrigliare il Parlamento. In tutto questo, martedì ricomincia l'esame in commissione. Il governo pensa già a un maxi emendamento su cui mettere la fiducia per approvare il disegno di legge in aula la prossima settimana a Palazzo Madama. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è una notizia che riguarda la Cassa Depositi e Prestiti. Matteo Renzi annuncia il cambio al vertice. Franco Bassanini si è dimesso da presidente. Il governo ha raggiunto l'accordo con le fondazioni bancarie per sostituirlo con Claudio Costamagna, così dice il presidente del Consiglio in un comunicato. Bassanini quindi assume l'incarico di consigliere speciale del presidente del Consiglio. Ci sono intanto nuovi problemi a Roma per il sindaco Marino. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, il salario accessorio pagato ai dipendenti del Campidoglio era illegittimo. Questa cosa sarebbe avvenuta durante l'amministrazione Alemanno. Poi però arriva una nota inserata del Ministero dell'Economia, secondo la quale alcuni organi di informazione hanno riferito di una richiesta del Ministero al Comune di Roma di recupero o rimborso delle somme erogate al personale dipendente a titolo di salario accessorio. Questa notizia è infondata, insomma, diciamo, ci sono state delle smentite, poi vediamo se è possibile capire qualcosa di più. E poi parliamo anche di Ilaria Alpi, perché dopo 16 anni è stato scarcerato Hashi Omar Hassan, accusato di concorso nel duplice omicidio della giornalista e del cineoperatore Miran Rovatin, avvenuto a Mogadiscio in Somalia nel marzo del 1994. Hassan, che era recluso a Padova, deve scontare altri 3 anni ai servizi sociali. E passiamo all'inchiesta sul crack della Divina Provvidenza. Emerge un'intercettazione in cui il cardinale Giuseppe Versaldi, ora prefetto dell'educazione cattolica, parlando al manager Giuseppe Profitti, gli consiglia di tacere con il Papa per relativamente a una somma di 30 milioni dell'ospedale Bambin Gesù provenienti da fondi pubblici italiani, che sarebbe stata utilizzata poi per l'acquisizione dell'IDI. Nell'inchiesta della Procura di Trani, che finora ha portato a 10 misure cautelari, tra cui la richiesta di arresto per il senatore del Nuovo Centrodestra Azzollini, il cardinale Versaldi non sarebbe comunque indagato e poi in serata ha replicato che non ha mai pensato di mentire al Papa. E ora occupiamoci di multe, perché potrebbero esserci migliaia di ricorsi contro le multe ai guidatori dopo che la Consulta ha bocciato una parte dell'articolo 45 del codice della strada. Sentiamo perché. Le autovelox necessitano di un controllo periodico del loro funzionamento e della taratura. Lo stabilisce la Corte Costituzionale, che ha considerato illegittima la mancanza nel codice della strada dell'obbligo di verifiche sulle apparecchiature. Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Bisogna rispettare la legge e questi strumenti devono essere perfetti. Per chi ha la possibilità di provare che ha avuto una multa con un autovelox non tarato legalmente, può fare causa e avere indietro i soldi anche se ha già pagato. La sentenza porterà inoltre ad un nuovo sistema di comunicazione delle sanzioni registrate con gli autovelox. Naturalmente da oggi in poi tutti i comuni, tutti coloro che usano, gli enti che usano l'autovelox, dovranno essere pronti ad allegare alla contravvenzione anche la prova che lo strumento era stato tarato e controllato e la data di questo controllo. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia dopo che la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare il ricorso di un cittadino della provincia di Cuneo, ha sollevato il dubbio di legittimità sull'articolo 45 del Codice della Strada. Enrico Forzinetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere il calcio, con i mondiali femminili in corso in Canada, oggi c'è una giornata di riposo, come ci conferma Martina Angelini. Ciao Martina. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Commentatrice di Eurosport specializzata in calcio femminile, quindi domani si iniziano gli ottavi di finale, no? Sì, domani iniziano gli ottavi di finale, i primi due sono Germania-Svezia, già partitissima, con la Germania super favorita, e Cina-Camerun con le africane, grande sorpresa del torneo. Senti, dicevamo che purtroppo non c'è la nazionale femminile, non ce l'ha fatta qualificarsi per i mondiali, però c'è un'italiana che ha una storia particolare lì. Sì, c'è un po' d'Italia, perché c'è un arbitro che si chiama Carina Vitulano, lei è della sezione di Livorno, anche se è nata in Argentina, perché il padre è stato un grande calciatore che ha fatto la storia del Livorno e della Salernitana, quindi è poi cresciuta a Livorno, e ha una storia particolare perché lo scorso anno lei arbitrava in Canada i mondiali under 20, che erano appunto già in Canada per testare gli impianti e l'organizzazione. Durante la sua prima partita, dopo 5 minuti, si è rotta da sola, in pratica è caduta in diretta televisiva in campo, si è rotta crociato collaterale, tutto il ginocchio le è saltato, poverina. Ma adesso, quelli in Canada? L'anno scorso, agosto, i mondiali under 20, quindi l'hanno portata via in diretta televisiva in barella, lei che piangeva, delle scene veramente poverina, tristi, però ha fatto un recupero ampio perché si è messa d'impegno, in 5 mesi era in campo per proprio partecipare, sì, per realizzare il suo sogno, e ce l'ha fatta, quindi adesso è in Canada, ha arbitrato già la prima partita fra Corea e Costa Rica, e adesso sta aspettando di essere designata per qualche altra gara degli ottavi o più avanti. Punta anche in teoria alla finale, però per chi se lo ricorda, l'anno scorso la finale del mondiale maschile l'ha arbitrata Rizzoli, che è un arbitro italiano, quindi è un po' difficile che la FIFA assegni per due finali mondiali anche per quest'anno, due italiani, però noi comunque intanto, visto che non c'è l'Italia, facciamo tifiamo per lei, carina. Tifiamo esatto. Per lei. Grazie Martina Angelini, a lunedì. Grazie a te, ciao Martina. Grazie. Ciao. E ora dobbiamo sbrigarci con gli aggiornamenti per chi viaggia. Volevo giusto leggere uno dei vostri messaggi sulla questione delle armi. Dice qualcuno: con la cultura portata avanti da estremisti alla Salvini, le armi libere sarebbero pericolosissime. Allora. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme ancora ai vostri messaggi. Claudio dice: le armi sostanzialmente hanno per molti un fascino indiscutibile come le auto, vediamo quanti con un'automobile ogni giorno sparano con regolare licenza. Claudio, lo trovo così, un'associazione un po' particolare. Comunque la domanda era a proposito di quello che è successo a Charleston e della polemica che ha riaperto il presidente Obama sulle armi troppo facili. Che cosa succederebbe secondo voi in Italia se si rendesse più facile l'accesso alle armi? Cioè, è una questione solo di lobby negli Stati Uniti o anche proprio culturale? 349-238-6666 per i vostri messaggi, sms, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo intanto le notizie principali, se avete acceso la radio in questo momento. Grecia, Tsipras crede nell'accordo, ma Juncker, presidente della Commissione europea, evoca il Grexit, e intanto ci sono code ai bancomat, in 2 giorni sono stati prelevati 2 miliardi. Rimpallo sui migranti alla frontiera con la Francia, che prima sembra che allenti un po' i blocchi, e poi invece dice la linea non cambia. Il cardinale Versaldi, che propose di tacere al Papa sui miliardi, non al Papa, propose di tacere, ma di non dire al Papa sui miliardi di fondi pubblici per Lidi, questo nell'inchiesta del crack della Divina Provvidenza, è stato rilevato in un'intercettazione telefonica a Versaldi che parla al manager Profiti. E poi Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini si dimette, diventa consigliere di Renzi, il timone va a Costa Magna. Alta tensione sulla scuola, Renzi dice bisogna far presto, metto la fiducia. E poi c'è il killer di Charleston che confessa, voleva una guerra razziale, rischia la pena capitale, l'ira di Obama sul congresso che appunto non ha ancora fatto nulla per le armi e le lobby delle armi che chiedono di metterle nelle chiese in modo che ci si possa difendere. Ora però facciamo il punto della politica italiana di questa settimana con il nostro Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Allora, tante le cose anche questa settimana, l'inchiesta su Mafia Capitale che va avanti e la posizione difficilissima del sindaco Marino, poi la polemica sui migranti, il braccio di ferro che continua con la Francia, in particolare interno tra i presidenti di regione e il governo, tra alcuni presidenti di regione, ma è più una cosa della scorsa settimana e adesso molto invece sulla Francia, lo scontro tra governo e sindacati per questo decreto attuativo del Jobs Act che prevede controlli a distanza sui lavoratori attraverso i dispositivi aziendali come cellulari, tablet e PC, e l'alta tensione sulla riforma della scuola, perché oggi c'è stata una riunione di Renzi con il PD e ha chiesto alla minoranza interna e alle opposizioni di riuscire ad arrivare a un accordo, cioè altrimenti metteremo la fiducia. Allora Fabrizio, partiamo da che cosa ha detto Renzi su Marino. Non se ne può più, sono mesi che continuiamo a discutere Roma sì, Roma no. Allora, se il sindaco e l'amministrazione, che hanno dei problemi oggettivi, poveretti, perché lì ci sono tre che sono gli arresti, se non sbaglio, quanti sono? Tre o quattro? Non ricordo, quindi hanno un po' di problemi oggettivi, si guardino allo specchio, decidano che cosa fare, il governo è pronto a fare la sua... Oh, c'è il giubileo quest'anno Roma, c'è tutto il mondo che la guarda. Basta con la discussione costante sulle questioni che interessano soltanto gli addetti ai lavori. Questo Renzi, qualcuno ha letto con un annuncio di sfratto, e poi Marino che risponde. Noi abbiamo trovato la città nelle stesse condizioni in cui Mario Monti ha trovato il paese prendendolo dalle mani di Silvio Berlusconi. Noi abbiamo, e forse in proporzione ancora peggiore, perché qui c'erano stati i ladri. Una scelta di questo tipo mira non al 2023, dove miro io, mira al 2030. Ma io non ho mai cambiato idea. Io sono qua per stare fino al 2023. Quindi nettissimo, resistente Marino fino al 2023, Fabrizio Forché. Ieri ho chiesto agli ascoltatori e ascoltatrici come si dovrebbe comportare Marino, perché poi Del Rio in una intervista a Panorama che è stata anticipata ieri dice: io non mi dimetterei fossi in lui, però mi confronterei con i romani per capire cosa pensano. Devo dire che sono arrivati molti messaggi di romani che dicono di resistere, alcuni invece che lo attaccano o dicono di riproporsi a possibili elezioni. Ma noi la scorsa settimana già era in piedi caso Marino e temo, certo, che sarà in piedi per molto, ancora molte settimane, secondo me ci facciamo almeno tutta l'estate. Ma insomma, ci eravamo detti che difficilmente Renzi avrebbe sfiduciato Marino, perché andare alle elezioni a Roma in questa situazione è particolarmente complicato per Renzi, e Renzi di tutto ha bisogno tranne che di un'altra sconfitta in elezioni locali, in elezioni amministrative e poi in una città importante come Roma. E quindi un po' ha sorpreso l'uscita di Renzi, ma l'uscita di Renzi però non si può ignorare, è un'uscita pesantissima da parte del Presidente del Consiglio, segretario del tuo partito, che pubblicamente lo dice da Vespa, ma poi lo ribadisce sui giornali anche nei giorni successivi, con retroscena successivi che lui non ha mai smentito, in cui c'erano frasi dure verso la possibilità che Marino restasse in carica. Quindi al di là insomma dello scenario giudiziario nel quale Marino per ora non è coinvolto direttamente, e io credo, insomma, da quello che abbiamo visto, insomma, finora responsabilità dirette di Marino oggettivamente non ce ne sono, ma insomma c'è uno scenario giudiziario che comunque andrà avanti con inchieste che non sono destinate a finire qui, quindi in qualche modo coinvolgono uomini che non sono direttamente di Marino, ma comunque sono dell'amministrazione comunale. Con un Presidente del Consiglio che ti sfiducia così pubblicamente, secondo me andare avanti per Marino non sarà una cosa facile. Però hai visto, addirittura preconizzato fino al 2023, qui per ora vediamo. Sì, insomma, non può piuttosto dire altro, poi insomma l'uomo è così, l'uomo getta il cuore sotto l'ostacolo, però insomma o Renzi o cambia posizione rapidamente, ma se Renzi mantiene questa posizione, e poi io mi chiedo perché questa posizione così dura da parte di Renzi, che appunto non ha interesse poi andare a votare a Roma, allora forse c'è la sensazione, la percezione appunto che le inchieste giudiziarie non finiscono qui e che quindi la posizione di Marino alla lunga possa diventare difficilmente sostenibile anche da parte del Presidente del Consiglio, e quindi conviene scaricarlo per tempo. Il dubbio viene. Senti, invece sorvoliamo sulla questione del buco a 350 milioni di stipendi, di premi stipendi, che il Ministero dell'Economia poi ha detto in serata: noi non abbiamo chiesto nessuna restituzione sugli stipendi dei lavoratori. Direi che è una cosa un po' complessa, vediamo magari come si sviluppa nei prossimi giorni. Invece sulla faccenda dei migranti, sia della polemica interna, dicevamo, tra il governo e alcuni governatori del nord, e quella con la Francia, sentiamo cosa ha detto il Papa. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente che cerca una famiglia, che cerca essere custodita. E poi Salvini, che ha polemizzato con queste parole del Papa. Papa Francesco: chiediamo perdono per chi chiude la porta ai rifugiati. Infatti ce ne sono in Vaticano i rifugiati? Ah, non lo so, bisogna chiedere ad Alfano, forse dice. Non abbiamo bisogno di essere perdonati, pecchiamo come tutti gli altri esseri umani, però ci sentiamo assolutamente buoni e generosi più di altri pseudo-cattolici che dicono c'è posto per tutto il mondo, no? Le porte, quando le porte vengono tirate giù a testate, è un problema per tutti, caro Papa Francesco. Così, poi ieri invece ha fatto i complimenti per l'enciclica, l'attacco alle banche, così, no? Comunque, insomma, il problema resta, adesso si continueranno a fare altri vertici, però mi pare che sia una situazione di stallo, di grossa difficoltà, no? Sì, una posizione di grossa difficoltà da parte di tutti, perché le soluzioni, come abbiamo capito, su questo problema nessuno ce le ha, non sono soluzioni facili, forse non ci sono soluzioni, tu pur. Per cui bisogna lavorare con serietà e bisogna lavorare a limitare il più possibile l'emergenza, senza pensare appunto che esiste la bacchetta magica, che esiste la soluzione che risolve definitivamente il problema. Però proprio perché la situazione è così difficile, piuttosto che dividersi in proclami la politica pensando a un tornaconto elettorale di tutti, io non dico solo Salvini, certo Salvini la sta cavalcando nella maniera più dura possibile e più utilitaristica possibile, ma c'è anche una posizione da parte invece della sinistra che non riesce a misurarsi in maniera moderna a questo fenomeno e va su un umanitarismo che però poi anche questo diventa buonismo, dici? Problemi. Diventa un po' buonismo e soprattutto non lavora alle soluzioni. Io credo che davanti a un'emergenza come questa, che è un'emergenza molto difficile, l'unica risposta che tu puoi dare è quella di cercare di governare l'emergenza, e quindi interventi di amministrazione, di governo proprio, e questo riguarda sia il governo centrale, e quindi in questo caso in particolare il Ministero dell'Interno, ma anche evidentemente regioni e comuni, che piuttosto che come dire, litigare col governo centrale, ne accogliamo 10, ne accogliamo 20, ne accogliamo 100, insomma pensiamo intanto ad accoglierli o perlomeno a trovare delle soluzioni che fanno sì che sui cittadini questa emergenza pesi meno, perché sui cittadini sta pesando l'emergenza, perché quando tu hai delle stazioni occupate da persone che dormono nelle stazioni è normale che i cittadini sentano l'emergenza e si rivoltano contro questo problema e magari contro gli immigrati, però alla fine nelle stazioni di Roma e Milano quante erano le persone? Erano 200, erano 300, erano 20 nuclei familiari. È possibile che in un grande paese come l'Italia non sappiamo gestire 200-300 persone e dopo 2 ore, non dopo 3 giorni, spostarle dalla stazione in una qualche abitazione, in un qualche centro di accoglienza? E questo è quello che mi sembra alle volte manca in Italia. Cioè, al di là della polemica politica, gestire i fenomeni, capacità di governo sul territorio, e quindi in questo modo magari attenui l'emergenza e la sofferenza di tutti, degli immigrati e dei cittadini che devono convivere con questo fenomeno. Fabrizio, sulla scuola vediamo un po' che cosa succederà. C'è Renzi che ha accelerato, prima era un po' più disposto al dialogo, adesso vuole stringere un po' le file. Si parla della fiducia, la fiducia indubbiamente sarebbe un atto molto duro in Parlamento. Ho l'impressione che però non ha molte alternative Renzi, perché da queste elezioni la sinistra del suo partito è uscita più forte, e quindi il Parlamento rischia davvero, su un tema come questo della scuola, rischia di trascinarsi, se non andare sotto nelle votazioni, per cui io temo che la fiducia, credo che la fiducia sia una scelta un po' obbligata. Senti, ultima parola sul Jobs Act, sai, tutta questa polemica, Camusso ha parlato di Grande Fratello, Poletti, ministro del lavoro, ha detto ma no, è in linea con la privacy, questi controlli a distanza sui lavoratori, siamo quasi in chiusura, che pensi Fabrizio? Mi sembra che una polemica, erano le norme, si conoscevano già da molto tempo, come spesso in Italia poi c'è un articolo di un giornale che magari le cavalca in un senso e diventano una polemica in cui ci si divide in maniera fortissima da una parte e dall'altra. Il sindacato ha l'impressione che queste norme le conosceva da settimane e più o meno non aveva fatto grandi polemiche, forse si possono migliorare. Forse si possono migliorare. Non lo so, non le conosco nel dettaglio, per cui non lo so. Però insomma, questa polemica così feroce mi pare anche eccessiva da una parte e dall'altra. Fabrizio Forché, buon fine settimana. Grazie a voi. Ci lasciamo per una breve ricreazione. Leggevo ancora un messaggio di questo che dice: con le lobby delle armi bisognerebbe ripagare con lo stesso denaro sparando. Insomma, cerchiamo di andare un po' più, diciamo, al cuore del problema. E poi un altro ascoltatore, che è Marco, che dice che il cervello è l'arma più forte, con i ladri bisogna agire. Bisogna essere un po' acrobati, diciamo. È un po' difficile ragionare in questi termini. Comunque la domanda resta questa: se ci fosse più facilità in Italia per accedere alle armi, secondo voi saremmo una popolazione che si armerebbe numerosamente? 349-238-6666, le vostre riflessioni, oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi continuano ad arrivare sul fatto di potersi armare in caso in Italia, se fosse più libero l'accesso alle armi. Dice un ascoltatore: armarsi al 349-238-6666, armarsi serve a far paura al potere, è necessario nei paesi in cui il popolo è più armato, in Svizzera per esempio, ma anche negli Stati Uniti, il potere ha più paura del popolo. Dice: in Italia l'arroganza del potere è protetta dal monopolio della violenza. Erika da Firenze: no, non ci armeremo fino ai denti, perché noi non siamo culturalmente violenti, il rischio è per le nuove generazioni. Ma adesso vi ricordo le notizie principali. Migranti, giallo sulla posizione della Francia, prima circolano voci di allentamento dei controlli, poi le autorità negano. In Grecia il primo ministro Tsipras crede nell'accordo, ma Juncker evoca il Grexit, e intanto i correntisti hanno ritirato 2 miliardi di euro in due giorni. Stati Uniti, il killer di Charleston confessa: volevo far scoppiare una guerra razziale, ora rischia la pena capitale. La riforma della scuola con l'appello del PD alle opposizioni, arriviamo a un accordo oppure si ricorrerà alla fiducia. E la notizia che riguarda Ilaria Alpi: dopo 16 anni scarcerato Ashi Omar Hassan, accusato di concorso nel duplice omicidio. Dunque, torniamo a parlare della strage che c'è stata nella chiesa di Charleston in South Carolina, negli Stati Uniti, con questo killer di 21 anni, bianco, Dylan Roof, con la pistola, una Magnum 44, e pensate, era stata regalata dal padre al compleanno, no? Come dicevo ieri, quello che qualsiasi buon padre regalerebbe a un figlio possibilmente maschio. E poi, grazie alle telecamere, anche la segnalazione di uno zio, è stato identificato, arrestato. Tra l'altro quella chiesa ha un valore simbolico, perché lì ci sono stati anche, diciamo che è stato cuore anche delle battaglie per i diritti civili negli anni 60, e proprio lì a Charleston è stato teatro di forti tensioni razziali di recente, perché un poliziotto aveva ucciso, sparandogli alla schiena, un afroamericano che aveva fermato semplicemente per un fanalino rotto, e lo aveva ucciso così indifeso. Il killer ha detto oggi alla polizia che voleva scatenare una guerra razziale. L'FBI indaga per scoprire eventuali collegamenti con gruppi estremisti americani, perché il South Carolina è antica terra di schiavi e schiavisti, e tra l'altro vi sono vari gruppi, gruppi dell'odio si chiamano, tra questi ci sono varie fazioni del Ku Klux Klan e poi aggregazioni per la supremazia della razza bianca. Insomma, un bell'ambiente. Ne parliamo con Christian Rocca. Buonasera, Christian. Buonasera. Direttore del mensile Il, il magazine maschile del Sole 24 Ore, è appena uscito tra l'altro, no? il nuovo numero, l'estate addosso, Christian. Sì, con qualche tema diciamo un po' più leggero. Meno male. Quello che stiamo per affrontare. E poi esperto di Stati Uniti, da dove in passato ha fatto anche il corrispondente, insomma profondo conoscitore dell'America. Quindi una cosa importante che ha detto Obama, ha detto parliamoci chiaro, queste cose non sarebbero successe in un altro paese avanzato se non il nostro, proprio per la facilità nell'accedere alle armi, ed è una lotta che lui porta avanti da diverso tempo ma senza risultati. Secondo te è solo una questione delle forti, potentissime lobby delle armi, o è anche una questione culturale negli Stati Uniti questa di armarsi e di... Le lobby delle armi non c'erano quando sono stati fondati gli Stati Uniti, e come sappiamo tutti è il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, cioè il secondo articolo della Costituzione degli Stati Uniti, dice che santifica il diritto dei cittadini e del popolo americano a portare le armi. Quindi diciamo è una cosa che ha radici ben più profonde, storiche, anche geografiche, perché conta anche molto questo territorio ampio, vasto, senza Stato, che nel corso degli ultimi due secoli abbiamo imparato a conoscere. Non credo che sia semplicemente una questione spiegabile con le leggi sulla facilità di accedere alle armi, perché questo caso terribile successo oggi insomma, può essere paragonato per esempio a quello di qualche anno fa, nel 2012, quando Obama proprio cominciò la sua battaglia da Presidente degli Stati Uniti per fermare la proliferazione delle armi ai privati. Vi ricordate, ci fu una strage in Connecticut, una scuola dove vennero uccisi 20 bambini bianchi, peraltro. E cosa successe? Successe che in quel caso l'autore di quella strage aveva le armi che aveva rubato alla madre, che le aveva regolarmente presi con porto d'armi regolare in uno dei paesi più controllati, in uno degli stati più controllati degli Stati Uniti quanto a legislazione di questo tipo. Quindi diciamo non è spiegabile con questo, non è spiegabile neanche con la semplice, come dire, spiegazione del matto che da solo fa giustizia delle proprie paure, dei propri problemi. È un problema legato alla natura degli Stati Uniti, su questo non c'è dubbio. Christian, invece qualcosa di più leggero, c'è un tema che tratti in quest'ultimo numero di Il, che è in edicola l'estate addosso? I temi sono tantissimi. Intanto c'è una raccolta di racconti originali che giovani scrittori italiani hanno scritto appositamente per noi, ce ne sono addirittura 8, ed è una bella lettura diciamo da portare sotto l'ombrellone. Poi c'è Giovanotti in copertina e ci sono molte altre cose, tra cui segnalo un manuale per twittare, stare su Facebook, stare su internet senza rischiare di andare in galera, perché ci sono ormai delle leggi così restrittive, precise, che bisogna seguirle. Chissà se Renzi avrà bisogno di questo manuale, sicuramente noi. Grazie Christian Rocca. Ciao. Grazie Christian. A voi. Ciao, buona serata. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso, prima degli altri temi, occupiamoci di Europa. Europa 24 notte. 20 anni fa finiva la guerra nell'ex Jugoslavia, 2 decenni dopo Sarajevo resta una ferita ancora aperta nel cuore dell'Europa. Raffaella Calandra è andata nella capitale della Bosnia Erzegovina, il primo dei reportage in onda domani mattina, e racconta questo paese con condominio dove bosniaci, croati e serbi convivono più o meno forzatamente da 20 anni, ma con forti tensioni religiose ancora acuite anche da una forte crisi economica. Ma Sarajevo ora spera di lasciarsi definitivamente il passato alle spalle guardando all'Europa. La guerra significa soprattutto tante vite spezzate, voi lo sapete bene. La città che vide l'inferno in terra ora spera nel Papa venuto dalla fine del mondo e nell'Europa, che per i più giovani è il volto giusto della luna e un ticket verso una vita migliore, come dice Emir. Emir è uno dei ragazzi di Sarajevo che la guerra di 20 anni fa l'ha conosciuta solo nei racconti dei nonni e nei libri differenziati di storia. Lui è nato in questo paese condominio, la Bosnia Erzegovina, dove serbi, croati e bosniaci vivono forzatamente dal giorno degli accordi di Dayton, e vorrebbe credere davvero nell'unione effettiva delle tre etnie, ma le differenze sono ogni giorno anche sotto i suoi occhi, come sotto quelli di Olga, giovane serba, agnostica, specifica, con un fidanzato croato e cattolico, e la sua famiglia, ci racconta, fa fatica ad accettarlo. Le tensioni allora sono sempre lì, come sepolte sotto la cenere della ricostruzione post-bellica e sempre pronte a riesplodere, alimentate da una disoccupazione che arriva al 67% per i giovani e aggravate dai problemi della privatizzazione delle aziende, come la Krivatva, produttrice di legno, dove lavorava questo operaio che ora, insieme ai colleghi, protesta davanti alla sede del Ministero degli Affari Economici per la mancata pensione. E ci sono altri 70.000 casi come i nostri, racconta un sindacalista. E in una situazione così, con un paese con due entità nella sua Costituzione e tre diversi presidenti, in una situazione così di isolamento anche economico, nessuno esclude che il conflitto possa riprendere, perché è stato solo congelato 20 anni fa, per ammissione dello stesso ambasciatore Lars Biegemark, alto rappresentante europeo a Sarajevo, fiducioso però che Sarajevo possa anche diventare la capitale del primo paese a maggioranza musulmana dell'Unione Europea. La gente ora dice di guardare avanti e di non pensare troppo indietro alla storia, ma quest'anno sono 20 anni dagli accordi di Dayton e sono 20 anni dal massacro di Srebrenica. Dayton ha in realtà solo congelato il conflitto e ci sono tantissime questioni niente affatto risolte. Ma dall'anno scorso l'Unione Europea ha lanciato un nuovo approccio per le riforme socio-economiche e non vedo ragioni per cui in futuro la Bosnia-Erzegovina non possa unirsi all'Unione Europea. La Bosnia ha una maggioranza musulmana e le tensioni religiose qui esplodono molto facilmente, ma la Bosnia può diventare il primo paese europeo a maggioranza musulmana e personalmente penso sarebbe una gran cosa, perché dimostrerebbe che l'Unione Europea è aperta a questo. Personally, I would think would be a great thing because it would show that we can manage, that the EU is open for that. E in questa prospettiva tutti, cattolici e non, hanno accolto con gioia il Papa in questa città che conobbe l'inferno in terra e che ora guarda all'Europa come al paradiso. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso parliamo del Family Day che sabato domani torna in piazza a Roma dopo 8 anni, scenderanno in piazza San Giovanni con striscioni, stendardi, musica, preghiere, vari gruppi cattolici senza le insegne della Chiesa o i simboli di partito come fu invece nel 2007, movimenti che vanno dal neonato gruppo Teocon dei parlamentari della famiglia, da Manif Purtù alle Sentinelle, agli Evangelici, al Movimento per la Vita. Ho visto che con un tweet ha aderito anche il ministro dell'Interno Alfano. Ne parliamo con Massimo Gandolfini, buonasera. Buonasera a voi. Che è docente di neurologia all'Università Cattolica e portavoce del comitato Da Mamma e Papà. Il vostro slogan è "Difendiamo i nostri figli". In che senso? Da cosa li dovete difendere? Allora, li dobbiamo difendere dall'invasione, quella che efficacemente Papa Francesco ha chiamato la colonizzazione ideologica delle teorie di gender. Le teorie di gender vogliono che ci sia una sorta di indifferentismo sessuale, per cui i bambini verrebbero educati nelle scuole di ogni ordine e grado all'idea che la loro appartenenza sessuata, maschio e femmina, non ha nulla a che fare con la formazione della loro personalità, e quindi la formazione della personalità è una libera scelta con la possibilità di scegliere fra dei generi diversi, indipendenti, ripeto, rispetto alla sessualità maschile e femminile, e oggi si è arrivati a stendere una lista addirittura di 58 generi. Gandolfini, scusi, ma qualcuno dice che in realtà è un'esagerazione, non esiste proprio una teoria del genere, ma comunque non è l'educazione a combattere gli stereotipi sul maschile e femminile, la parità tra i sessi, contro le discriminazioni, in questo senso? Assolutamente, no? Sì. Allora diciamo che i bambini hanno bisogno di un'educazione vera, seria, rigorosa, civica, in base anche all'articolo 3 della Costituzione, che dice che nessun cittadino debba essere discriminato per condizioni personali o sociali, ma questo non significa che hanno bisogno di un'educazione di genere, che invece è una cosa totalmente diversa. Ma lei è d'accordo con la parità tra i sessi? Assolutamente sì, la parità dei sessi è un valore sacrosanto, diciamo, della democrazia civile ed avanzata, ma ripeto ancora una volta, questo non vuol dire la proposta di crescere i bambini attraverso delle scelte di genere che non hanno nulla a che fare con la parità di genere, con la parità di sesso. Insomma, in genere c'è abbastanza un po' di confusione su questa cosa, ma è vero che siete anche contro le unioni civili, Gandalfini? Allora, siamo contro le unioni civili omologate, parificate al matrimonio, come viene costituzionalmente definito dall'articolo 29, che dice che il matrimonio è una società naturale fondata, la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Allora, la famiglia è così definita. Le altre forme di relazione affettiva, come possono essere le unioni civili tra individui di pari sesso, devono essere garantite da dei diritti che sono legati al diritto della persona, ma non certamente alla pienezza del diritto familiare che spetta soltanto alla famiglia, come la definisce la Costituzione. Gandolfini, abbiamo ancora 30 secondi, è vero che ci sono molti politici, ci saranno domani? Sì, non abbiamo una lista dei politici, abbiamo avuto delle adesioni anche che non pensavamo, non solo del mondo politico ma anche del mondo sociale, culturale. Pensiamo di essere veramente centinaia di migliaia di persone in piazza. Benissimo, grazie Massimo Gandolfini. Grazie a voi, buon grazie. Lavoro. A grazie. Lei. E adesso è tempo di sapere che tempo farà col nostro Paolo Corazzon, cioè sì, di Trebi Meteo. Paolo, ci sono, buonasera Roberta, eccomi. Solare come sempre, quindi noi abbiamo buone speranze quando ti sentiamo. Ma guarda, ti dirò che iniziamo così, ma finiamo bene il weekend, perché domani qualche temporale ci sarà, soprattutto sulle regioni adriatiche, nelle zone interne del centro-sud e sulle regioni di nord-est. Temporali però che dovrebbero essere comunque passeggeri. E in ogni caso domenica, che tra l'altro cade il solstizio d'estate, quindi inizia ufficialmente l'estate, la situazione sarà nettamente migliore, giornata da godere da nord a sud all'aperto. E poi ti preannuncio che settimana prossima, a partire da metà settimana, le temperature cominceranno a salire e finiremo il mese con una bella ondata di caldo, sarà proprio estate piena a quel punto. Finalmente un po' di ventagli, ma almeno non fa più freddo, non piove. Grazie Paolo Corazzon. Buon weekend. Buon weekend a te. Noi ci sentiamo alle 22.